Salve a tutti, io sono Jasmine, questo è Radio Big World e benvenuti alla nuova puntata di Curiosità Animate, dove vi parlo dei classici Disney. Il classico di cui parleremo oggi è Basil l'investigatopo ed è un film del 1986 ed è considerato il 26esimo classico Disney. Il film è una specie di parodia della saga di libri famosissima di Sherlock Holmes. Infatti il protagonista è Basil, un investigatore privato, che vive nei sotterranei di Baker Street, dove vive appunto Sherlock Holmes. E infatti tutta la società dei topi di Londra vivono tutti nei sotterranei appunto della città. La storia inizia quando la piccola topolina Olivia assiste al rapimento del proprio padre da parte di un pipistrello. Quindi chiede l'aiuto a Basil e a Thompson, che è il suo amico, che sarebbe Watson, la sua versione umana. Gli investigatori scoprono che dietro a questo rapimento in realtà si trova il malvagio professor Rattigan, che è la nemesi appunto di Basil, che voleva utilizzare le doti del padre di Olivia per creare un automa somigliante alla regina dei topi, di modo che la potesse sostituire e governare quindi sul regno dei topi. Ovviamente gli investigatori lo smascherano e salvano quindi la regina e la piccola famigliola. Inoltre il film finisce con l'inizio anche di un'altra indagine. A livello di realizzazione questo film, come anche per il film precedente che era Taro nella pentola magica, vede l'utilizzo appunto della computer grafica. Tra l'altro con l'arrivo di questo film e con la sua produzione si può definire già l'inizio della rinascita o comunque diciamo del rinascimento della produzione Disney, che fino ad allora era un po' più sottofondo. Grazie per avermi seguito, io sono Jasmine, questa era Radio Big World e ci vediamo alla prossima puntata di Curiosità Animate.